Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com. I love Italy. Yeah. I love Italy. Mangiarotti su Radio Miami. I love Italy. Estate, calda estate 2022. Benvenuti a tutti su Double RMI, questa è WRMI Radio Miami International e la trasmissione che state ascoltando è I Love Italy con il vostro Andrea Mangiarotti. Quindi la redazione italiana di Radio Miami è qua per intrattenervi con i nostri 15 minuti nella lingua di Dante, di Petrarca e così via. Va bene ragazzi, come state? Qua c'è veramente caldo in Italia, ci sono delle temperature tropicali, sembra di essere nella Latino America, anzi salutiamo tutti gli amici che ci sentono anche dall'America Latina, salutiamo anche chi ci ascolta invece dall'Europa, dagli Stati Uniti, dal Canada e dall'Europa dell'Est, Nord Africa e così via. Però I Love Italy potete essere, se vi va, anche voi grandi protagonisti, potete scriverci, potete visitare il nostro sito e, se vi va, mandarci un rapporto di ricezione. Io sono Andy Mangiarotti. Vediamo ora le coordinate per interagire con I Love Italy. Potete innanzitutto visitare il mio sito andreamangiarotti.com, lì trovate tutti i vari contatti per interagire con me. Poi c'è il sito della trasmissione voiceofitaly.it, nonché anche il sito dell'emittente che ci ospita wrmi.net. Lì potete anche inviare un rapporto di ricezione telematico. Se volete proprio mandarci un rapporto di ricezione per farci sentire insomma come si sente la radio nella vostra nazione, abbiamo la mia mail andrea@mangiarotti.org, oppure abbiamo anche il numero per mandare messaggi WhatsApp, se scrivete fuori dall'Italia, 0039 377 45 630 33, per i vostri rapporti di ricezione tramite WhatsApp. Se poi invece siete magari un pochino antichi, vi piace ancora scrivere con carta e penna, vi rimando l'indirizzo nella radio: WRMI PO Box 526852 Miami Florida 33152 Stati Uniti d'America. In quel caso potete mandare una cartolina o una lettera al nostro caro Jeff White e a tutto lo staff di Double RMI. Prima di incominciare la trasmissione vi ricordo il nostro sito, il sito per interagire con il programma e per scriverci, se vi va, tramite mail. Il sito è questo. This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. And now, let's introduce you to a friend from our show. Her name is Katja Tanskanen and a singer-songwriter, producer Katja T. from Finland. Today here at I Love Italy we will introduce you and let you listen to his new single, entitled Blue Summer Car. More information on katjatanskanen.wordpress.com. I still have my hope, something in the rain. I wouldn't lose you, never again. I call you to my view. What Of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. E questo è il sito di I Love Italy per interagire con Andrea come volete. Apriamo ora gli argomenti di questa calda estate. 40 anni fa, per l'esattezza, l'11 luglio del 1982, un grande successo per gli appassionati di calcio, gli azzurri superarono i tedeschi per 3-1 e vinsero il terzo titolo mondiale, appunto, per nazioni del calcio. Quindi, se siete tifosi, ricorderete questa data memorabile: 11 luglio 1982, l'Italia campione del mondo. E un mondiale che è veramente rimasto nella storia. Sono passati proprio 40 anni da quel 1982, eravamo in Spagna e la nazionale italiana era anche un pochino, diciamo così, derisa dai vari critici sportivi, giornalisti sportivi, perché si presentava a questo mondiale un pochino rimaneggiata. Poi, tra le altre cose, c'era il grande Enzo Berzot, che aveva escluso sia Pruzzo che Beccalossi, mettendo in nazionale un Paolino Rossi, che era un centravanti della Juve, lo dico magari per gli amici e le amiche che non sono sportive, che veniva da 2 anni di espulsione dai campi calcistici. Quindi Berzot rischiò, ovviamente contro la critica, contro tutti i vari giornalisti che gli diedero contro e non solo, portando Rossi in nazionale. La prima fase, bisogna essere sinceri, non fu eccezionale. Nel primo girone l'Italia giocò contro la Polonia, il Camerun e il Perù, e praticamente collezionò 3 pareggi. E passò al turno successivo per il numero di reti segnate rispetto proprio al Camerun. Quindi questo spareggio, l'Italia è passata al turno successivo per il numero di reti segnate rispetto al povero Camerun. Poi cosa capita? Nel girone dell'Italia c'è questo mini girone dove l'Italia si trova ad affrontare niente di meno che Argentina, quindi salutiamo gli amici dell'Argentina, e il Brasile. E l'Italia, pensate un po', riuscì a bloccare il grande Diego Armando Maradona e anche Arthur Coimbra Zico, proprio grazie alla bella difesa che Berzot aveva pensato, e l'Italia batte sia l'Argentina che il Brasile. Quindi 2 vittorie e l'Italia vola alla grande in semifinale. In semifinale si trova di fronte una Polonia, gioca una partita discreta, vince per 2-0, e attenzione, Paolo Rossi iniziava già a segnare anche contro l'Argentina e il Brasile. Paolo Rossi era scatenatissimo, Pablito il goleador veniva chiamato, e l'Italia batte per 2-0 anche la Polonia e vola in finale, finalissima contro la Germania Ovest, a cui si gioca veramente tutto la nostra nazionale. Tra le altre cose, sugli spalti c'era anche il simpatico presidente appunto Pertini, che si trovava nella delegazione italiana a fianco alla delegazione tedesca, adesso non mi ricordo chi erano i ministri ospiti. Comunque anche il nostro Sandro Pertini diede spettacolo quando l'Italia segnava, quando segnava Oriali, Tardelli, quando segnavano insomma Rossi, scusate, quando segnava Rossi, Altobelli e così via, si alzava in piedi con questa pipa che diede appunto l'immagine di una nazione comunque allegra, simpatica, che oltre magari all'ottima posizione per quanto concerne gli stati più industrializzati, l'Italia insomma amava il calcio, e tramite il calcio gli italiani dimenticavano, passatemi in termini, magari un pochino i problemi della loro vita, si sfogavano e facevano come il nostro presidente Sandro Pertini con la pipa e con appunto questa felicità. Italia campione del mondo era l'11 luglio del 1982. Questo è il primo argomento. Secondo argomento, estate, siamo sempre negli anni 80, nella maggior parte delle città italiane da circa 10 anni c'è questa moda di proiettare le pellicole all'aperto, il cosiddetto cinema sotto le stelle, quindi se venite in Italia sicuramente potrete vedervi una pellicola sotto le stelle. Tornando sempre al 1980, 82, forse un po' più in là, diciamo anni 80, beh, non mi ricordo la data precisa, vi voglio consigliare un film bellissimo che è stato presentato in concorso alla 78esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, dove ha vinto tra le altre cose il Leone d'Argento. Sto parlando di È stata la mano di Dio, un film molto bello di Paolo Sorrentino con un giovanissimo attore, Filippo Scotti, bravissimo, che interpreta Fabietto. Poi c'è anche un immenso Tony Servillo che fa per l'appunto il papà di Fabietto, e la trama è questa: Napoli anni 80, Fabietto vive un'adolescenza spensierata in compagnia dei genitori, per l'appunto Saverio e Maria. E la prima parte del film è bellissima perché fa veramente tanto ridere, ricorda un pochino vagamente Amarcord di Fellini, con questa famiglia allungata con tanti parenti e così via. Quindi ve lo consiglio, lo potete vedere quest'estate in giro per l'Italia nei vari cinema all'aperto. E poi la seconda parte purtroppo è drammatica, perché accadranno delle cose purtroppo per il giovane Fabietto, che scoprirà a sue spese anche che la vita non è tutta rosa e fiori. Lui dice di essere stato salvato da Diego Armando Maradona, ma perché Diego Armando Maradona lo salverà non ve lo posso dire, se non vi tolgo il gusto di vedere questo capolavoro, questo ennesimo capolavoro. È stata la mano di Dio, fin dal 2021, scritto e diretto da Paolo Sorrentino, quindi ve lo consiglio. Magari se ci state sentendo anche dagli Stati Uniti lo potete vedere sicuramente su qualche piattaforma, oppure acquistare direttamente il DVD. È stata la mano di Dio, film bellissimo che ci proietta nella meravigliosa Napoli degli anni 80. Noi abbiamo finito, vi ringrazio ancora una volta Jeff White per lo spazio e per avermi permesso di essere in onda in varie nazioni del mondo, grazie ancora. Ricordate I Love Italy, voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com, doublerami.net. Da Andrea tutto, Dio piacendo ci risentiamo prossimamente sempre qua su Radio Miami International. Buon proseguimento con le trasmissioni nelle vostre lingue del cuore qua su Radio Miami. Ciao, alla prossima, un salutone dall'Andreone, ciao ciao ciao ciao. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.